io. Se tu mi pensi, tornerò. E nel cuore del mio dolce amore cambierei se cambierai. Ma chissà, ma chi lo sa, perché l'amore sbanda con l'età. E dentro nel cuore del tuo dolce amore, amami, perdonami. Ma chissà, ma chi lo sa, perché l'amore sbanda con l'età. Lei mi diceva, forse il tuo amore non era sincero. Se mi amavi dal fondo, mi amavi davvero. È solo un senso di colpa che uno ha, che senso ha. Ti scrivo solo due righe per averti vicino. Basta solo un sorriso per poi riprovare. È solo un senso di colpa che uno ha, che senso ha. Cambierai, ma chissà, ma chi lo sa, perché l'amore sbanda con l'età. E dentro nel cuore del tuo dolce amore, amami, perdonami. Ma chissà, ma chi lo sa, perché l'amore sbanda con l'età. Lei mi diceva, forse il tuo amore non è sincero. Se mi amavi dal fondo, mi amavi davvero. È solo un senso di colpa che uno ha, che senso ha. Perché l'amore sbanda con l'età. E dentro nel cuore del tuo dolce amore, amami, perdonami. Ma chissà, ma chi lo sa, se tornerà.